Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, di una puntata in cui avremo come ogni venerdì la poco invidiabile classifica, che però oggi, anche visto che ci avviciniamo a un periodo natalizio, per carità, molto molto particolare, ha anche qualche novità, mettiamola così, natalizia. Allora, per quello che riguarda i temi oggi, segnalo sostanzialmente i nuovi scenari economici. Ce ne occuperemo, diffusi dal rapporto di Prometeia sulle previsioni macroeconomiche, nel senso che c'è un cauto ottimismo rispetto a quello che abbiamo visto in altre analisi sul fatto che l'Italia riuscirà a spendere l'80% dei fondi del recovery, con un impulso alla crescita dello 0,3% nel 2021 e un impatto positivo. Il PIL crescerà grazie all'utilizzo di questi fondi di 1,2 percentuali a fine del 2023, contribuendo sostanzialmente con uno 0,3-0,4 aggiuntivo ogni anno. E non tutte le spese aggiuntive andranno a investimenti, perché sappiamo che 80 miliardi verranno utilizzati per non aumentare il debito, e che pur continuano a essere privilegiati, gli effetti moltiplicativi saranno inferiori. E questo per quello che riguarda il recovery. Per quello che riguarda la stima sul PIL, allora il calo dovrebbe essere del 9,1% secondo Prometeia, a questo punto però ci siamo, mentre il rimbalzo non più del 6,2% l'anno prossimo, del 4,8%. Anche se fa notare il rapporto che l'economia italiana ha mostrato una buona resilienza, sapete che è un termine che io non amo, anche più delle previsioni nel terzo trimestre. La politica fiscale quindi ha sostenuto i redditi, quella monetaria ha rafforzato il credito, ma la seconda ondata porterà con sé un lascito non trascurabile. Tradotto, si sta per entrare nel 2021 con il freno a mano tirato. E aggiunge Prometeia, attenzione, vi potrà essere una difficoltà di implementare i fondi Next Generation. Oggi il ministro Gualtieri su questo ha detto che l'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio Europeo sul Recovery Fund porta il prefinanziamento al 13%, che vuol dire che per l'Italia sono 6 miliardi in più rispetto, e ha fatto l'elogio a Irene Tinagli, il ministro dell'Economia Gualtieri. 6 miliardi in più, il prefinanziamento è quello che tu puoi ricevere, diciamo, già nel 2021, cioè puoi andare a scontare, immaginando che poi avrai un prefinanziamento pari appunto al 13%, che vuol dire appunto 6 miliardi in più per l'Italia. I mercati oggi, fermo restando che il numero per i vostri sms come sempre 349-238-6666, li raccontiamo tra un attimo. Poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, i mercati finanziari, dicevo, oggi tutti complessivamente deboli, perde lo 0,20% Milano, perde lo 0,40% Parigi, lo 0,20% Francoforte, Londra lo 0,20%, Dow Jones meno 0,70%, negativa Pirelli del 5,20%, Finecobank del 2,30%, Atlantia dell'1,80%, Italgas meno 1,70%, su Pirelli... ci sono stati molti movimenti. Un titolo molto altalenante ha collocato un bond convertibile, un'obbligazione convertibile. Alcuni osservatori giustificano in questo modo i movimenti sul sul titolo. Tra chi guadagna invece CNH, Case New Holland più 3,60%, Diasorin più 2, Amplifon più 1,5, Unipol più 1,5, Xor più 1 come Boots, Unicem e Recordati. Allora, notizie di carattere internazionale, resta la porta aperta, diciamo così, di Johnson sulle negoziati per la Brexit, resta nel senso che Johnson ha detto la porta è aperta, ma il negoziato è difficile. Barnier sul fronte europeo ha detto vogliamo l'accordo ma non a tutti i costi. Comunque il tempo, come si dice in questi casi, stringe. Ancora appello di OMS, dell'OMS in Europa, restate a casa a Natale. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europea, Hans Kluge, c'è stato un nuovo record di casi in Svezia, visto che qualcuno continua a insistere. Sulla Svezia 10.000 casi in 24 ore contro gli 8.800 del giorno precedente, con un tasso di mortalità che è dalle 5 alle 10 volte quello dei suoi vicini. Adesso la Svezia raccomanda le mascherine sui mezzi pubblici per la prima volta dall'inizio della pandemia. Nel frattempo l'Austria ha varato un lockdown totale dal 27 dicembre, ricordate le polemiche sugli impianti sciistici aperti in Austria, i tentativi appunto per ridurre, per avere un'azione coordinata a livello europeo, scusate. Beh, l'Austria ha varato un lockdown totale dal 27 dicembre, negozi, bar e ristoranti sono chiusi, il coprifuoco è di 24 ore al giorno, quindi assomiglia molto alla nostra zona rossa, si può uscire solo per necessità. La novità è che l'Austria inizierà, dopo il terzo lockdown, uno screening di massa in programma il 16 e il 17 gennaio. Solo chi avrà un esito negativo potrà uscire dal 18 gennaio. Chi, quando i negozi e i ristoranti riapriranno, chi si rifiuta di fare il tampone rapido deve aspettare un'altra settimana in quarantena. Anche le scuole riapriranno solo il 18 gennaio. C'è stato un record di morti in Austria. Nella settimana tra il 30 novembre e il 6 dicembre sono deceduti 2.536 austriaci, uno dei valori più alti degli ultimi 50 anni. E così rispondo anche alla parte statistica, sono morti per Covid, sono morti con il Covid. Allora, in Austria hanno calcolato che i morti avuti tra la settimana tra il 30 novembre e il 6 dicembre sono l'85% in più delle medie settimanali degli ultimi 5 anni. Un quarto di questi decessi è direttamente imputabile al coronavirus, quindi più dettagliato di così, chiaro che riguarda l'Austria. La Germania 813 morti in 24 ore, attende però, e quasi 34.000 contagi, attende però gli effetti della chiusura annunciata da Angela Merkel. Allora, la Germania invece migliora l'indice sulla fiducia delle imprese a 92 punti, questa è una buona notizia, anche se abbiamo visto dei dati contrastanti arrivare dalla Germania. Veniamo all'Italia, come vi hanno raccontato i nostri GR24, il 27 dicembre arriveranno le prime dosi simboliche, la data appunto di partenza per la vaccinazione, la campagna di vaccinazione a livello europeo. Dunque, sì, qualcuno mi dice guardi che però gli austriaci il Natale lo fanno sereni. Sì, faccio notare che poi dal 27 al 16 è tutta rossa l'Austria. Io non starei a fare tutti questi confronti su le varie formule adottate. Abbiamo spiegato più volte che noi stiamo seguendo un modello che somiglia più a quello britannico, che ha tre livelli di pericolosità. Loro li chiamano con i numeri, noi li chiamiamo con i colori. Comunque andiamo avanti, 9.750 dosi il 27 dicembre arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma, da lì partirà una distribuzione simbolica in tutte le regioni, chiaro che è simbolica visto che sono meno di 10.000 dosi. si va in manovra verso lo stop all'IVA sui vaccini anti-Covid e c'è un maxi pacchetto di modifiche dai nuovi ecoincentivi per le auto di cui abbiamo già detto, ai fondi per il trasporto aereo, alle misure per gli autonomi, il fondo per l'esonero dei contributi agli autonomi, quelli sotto 50.000 euro se abbiamo ben capito, e la nuova CIG. Anche nuovi aiuti per turismo, lavoratori fragili e le lavoratrici madri. E poi arriva il kit digitalizzazione. Chi vive in famiglia con un reddito ISEE sotto i 20.000 euro potrà avere per un anno un cellulare incomodato d'uso connesso ad internet, con incluso l'abbonamento a due organi di stampa e l'app Io, è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. E chiaramente devi andare a dimostrare che l'ISEE è sotto i 20.000 euro. Niente rata, prima rata IMU nel 2021 sugli immobili legati all'attività del turismo e dello spettacolo. Questa è una bozza di emendamento alla manovra. E sarebbero coinvolti, oltre agli alberghi, gli stabilimenti balneari, i villaggi turistici, anche i bed and breakfast, le discoteche e night club. E poi nascerà, lo ha annunciato il vice ministro Castelli, con la legge di bilancio nascerà un ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi, si chiamerà ISCRO, indennità straordinaria di continuità editoriale, e sarà erogata dall'INPS a tutti i titolari di partite IVA che registreranno un calo di fatturato di almeno 50% rispetto alla media di fatturato dei tre anni precedenti, un'indennità di 6 mesi che potrà arrivare fino a 800 euro mensili. L'accordo sul congedo per i papà sale, poca roba, da 7 a 10 giorni il congedo di paternità per i figli. E poi il DL Ristori, che è passato alla Camera con 330 sì, il no erano 215. Sostanzialmente viene convertita in legge il decreto Ristori, ma non il bis, tutti i decreti, cioè tutti i provvedimenti adottati tra fine ottobre e fine novembre, che sono 4 decreti ristori, valgono nel complesso 18 miliardi e ricorderete prevedono i contributi a fondo perduto moltiplicati per 2 o 1,5 a seconda delle aree. Adesso non posso rifare la storia del decreto ristori, se sei rosso era moltiplicato per 2, se eri giallo per 1,5, quanto avevi ricevuto ad aprile. C'è poi nei decreti ristori anche la sospensione delle imposte, contributi e versamenti, le nuove settimane di cassa integrazione e 2 ulteriori mesi di reddito di cittadinanza. Molti di voi mi chiedono: ma quando arriverà il decreto sulle nuove restrizioni? Allora, il Consiglio dei Ministri è fissato per le 18. Abbastanza chiaro che dal 24 al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa tutta nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione, se abbiamo ben capito, nei giorni lavorativi. Il TAR ha bocciato ha respinto la richiesta del governo di sospendere l'ordinanza della Val d'Aosta, e lo stesso Zingaretti, segretario del PD, ha detto: la zona gialla sotto le feste non basta più. È evidente che da noi nel Lazio la zona gialla ha funzionato, ma durante il periodo delle feste non basta più, è inutile che giriamo attorno al problema. Anche il sindaco, anche il presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini ha detto: sono due le ipotesi, una zona rossa che prosegua dalla vigilia di Natale alle Epifanie, una zona alternata con qualche allentamento, privilegierei questa seconda fase. Il presidente della Liguria Totti chiede al governo di tener conto di tutti i numeri. Il presidente della Lombardia Fontana ha detto: come era facile prevedere, è iniziato l'esodo per le festività natalizie. Continuo a chiedermi perché 21, 22, 23 dicembre non sia stato consentito muoversi, evitando così questi affollamenti dell'ultima ora. Tutti esauriti i biglietti del Frecciarossa da Milano a Napoli oggi, restano pochi posti anche per domani e domenica, anche perché i treni viaggiano al 50% di capienza e il numero di treni è il 30% in meno di quelli che viaggiavano prima dell'epidemia. Anche gli aeroporti milanesi non dico che siano presi d'assalto, però ci saranno 80.000 passeggeri che transiteranno tra Linate e Malpensa contro una media di 55.000, ma faccio notare che 80.000 passeggeri nel weekend sono il 90% in meno quasi rispetto allo scorso anno in questo periodo, quindi stiamo parlando di un non di un assalto agli aerei, ecco, questo si può dire. Allora, vedo molte domande, adesso cerchiamo di dare anche, guardate, sono bozze agli emendamenti sulla manovra, quindi io non posso aggiungere molto altro. Comunque, andando avanti, ancora qualche notizia, a Milano dal 7 gennaio, allora, ieri abbiamo avuto ospite il direttore generale della TM, nonché presidente delle municipalizzate, e ci aveva detto, guardate, stiamo con un tavolo in prefettura, stiamo chiedendo a Milano per quello che riguarda la TM e nelle altre province, soprattutto delle città più grandi, di posticipare l'apertura dei negozi in modo che non solo siano scaglionati gli ingressi degli studenti, che sono prioritari in questo momento, ma per fare in modo che si creino, non si creino i picchi tra le 7 e le 9. Bene, oggi si è raggiunto un accordo, lo ha spiegato il sindaco di Milano Sala, con il prefetto Renato Saccone. Dal 7 gennaio a Milano i negozi apriranno alle 10:15 di mattina, chiaramente, esclusi gli alimentari e i bar, così si realizzerà un ulteriore scaglionamento, anche perché da questo punto di vista già le scuole dovrebbero essere più scaglionate di più scaglionate di settembre, se anche riesce a mettere i negozi, non appunto quelli di prima necessità come alimentari e bar, alle 10:15. Da gennaio poi ha chiesto sempre il sindaco Sala, le scuole rimarranno in parte aperte a distanza, ma si vuole arrivare al 75% degli alunni in presenza. Da gennaio gli ingressi saranno anche alle 8 e alle 9:30. Due notizie ancora. Per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 causò 43 vittime, la procura di Genova ipotizza anche il reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, quindi il crollo doloso. Sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere fonoassorbenti pericolose, che ha portato a scoprire come gli ex vertici di Autostrade per Italia abbiano voluto risparmiare sulla manutenzione della rete per accrescere gli utili del gruppo Atlantia, abbiano così falsificato atti per nascondere i mancati restyling e fossero consapevoli del pericolo. Quindi le accuse sono attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. 71 gli indagati. Dunque, molti mi stanno segnalando, non dico resse, ma negozi, centri commerciali. Ragazzi, però dobbiamo anche capirci, se i negozi sono aperti, e penso soprattutto alla Lombardia e Piemonte che sono rimaste rosse e poi arancione per delle settimane, dei mesi, è chiaro che si crea, che la gente va a comprare nei negozi. Poi io posso essere dell'idea che, a meno che tu non debba fare un acquisto, andare a camminare sulla via del Corso o in Galleria Milano, vai a camminare in un parco, perché insomma crea una specie di assembramento inutile, ma non possiamo sorprenderci che vi sia gente che sta facendo shopping nel momento in cui abbiamo aperto i negozi e siamo diventati zona gialla. Dico siamo perché la cosa si nota soprattutto nelle regioni che più a lungo sono rimaste zone rosse, cioè delle due l'una. Il governo ha fatto anche cashback per Natale, allora voglio dire, cioè, se fai un cashback per il Natale, ti immagini che la gente vada a fare acquisti, diventi area gialla, la gente va a fare acquisti, giusto avere aperti i negozi fino alle 21, ma adesso dire improvvisamente cosa ci fa la gente in giro. Poi ripeto, personalmente ritengo che se uno non ha da fare un acquisto, non ha da svolgere nessuna attività, invece che camminare in giro per il centro a guardare le vetrine, può anche camminare da un'altra parte in un parco, ma questa è una valutazione, insomma, personale di buon senso. Ma però non ci può neanche sorprendere che improvvisamente la gente voglia andare in un negozio quando li ha avuti molti di questi chiusi, o in un bar o in un ristorante. Ho visto anch'io i bar e i ristoranti affollati, nel rispetto delle norme, immagino, però non possiamo sempre sorprenderci, se no potevi lasciare anche la Lombardia zona rossa. Ultima notizia riguarda l'Alitalia. Allora, il neo numero uno Fabio Lazzarini, amministratore delegato della nuova Alitalia ITA SPA, ha detto: con ITA si crea una discontinuità col passato, aggiungo io, sperem. Il pareggio di bilancio arriverà nel 2022 e l'EBIT sarà positivo nel 2023. E poi sulla nuova partnership Lazzarini stima di poter chiudere la nuova partnership nel 2021. Gli obiettivi prevedono 9.500 dipendenti al 2025, 93 rotte e 3,4 miliardi di ricavi, 80 aerei di nuova generazione. Lazzarini ha detto: è eccessivo dire che i sindacati bocciano il piano, però è stato definito assolutamente inaccettabile da Filt, CGL, Fit, CIS, Will Trasporti e UGL Trasporto Aereo. Perché dicono: con poco più di 50 aerei si va verso l'avvio di una mini compagnia contraddistinta da un piano insoddisfacente. Serve più coraggio, visto che i 3 miliardi investiti dal governo sono stati stanziati per rilanciare l'Italia e per tutto il trasporto aereo, non per licenziare. Beh, insomma, dico ai sindacati, un attimo, non sono neanche stati per mantenere dipendenti che non sono... un gruppo che non si regge in piedi, siccome sono soldi nostri, i 3 miliardi del governo, non sono soldi del governo, ho capito che servono per rilanciare l'Italia, ma tu un gruppo lo rilanci anche vedendo come resta profittevole o come diventa profittevole. Non è che in automatico, siccome arrivano i 3 miliardi, questo vuol dire che bisogna garantire. Mi dispiace moltissimo perché utilizzavo l'Italia ogni volta che potevo, ma non è in automatico che siccome ricevi 3 miliardi non si possa toccare il perimetro occupazionale, perché l'obiettivo, visto che sono soldi nostri, visto che l'Italia di soldi degli italiani se ne è già mangiati tanti, è arrivare all'Italia che stia con le proprie gambe, che stia in piedi con le proprie ali, non solo il perimetro occupazionale, anche se capisco che i sindacati in questo caso fanno anche il loro lavoro, ci mancherebbe. Pochi istanti fa il ministro Catalfo ha chiesto che con la manovra venga estesa la cassa integrazione autonomi, quella che ricordavo prima, anche agli ordinisti, quindi l'ammortizzatore sociale che l'INPS darà con un importo da 250 fino a massimo 800 euro mensili per chi ha avuto cali del fatturato, quello che ricordavo prima, di almeno il 50%, eccola qua, con cali di fatturato di almeno il 50% rispetto alla media degli ultimi 3 anni, venga estesa anche agli ordinisti, cioè ai professionisti ordinisti e non, quindi non solo i lavoratori autonomi, perché da quello che si è capito erano esclusi gli ordinisti da questa manovra, e adesso Catalfo chiede che venga estesa. Allora, partiamo con la classifica dopo il metro e la pubblicità, una classifica che inizierà in maniera un po' più natalizia, se ci riusciamo. Una cosa, secondo me, non è l'unico caso, perché per fortuna ve ne sono stati altri, però segnalo che oggi la Barilla ha deciso di dare 1.000 euro a ciascun dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale, per ringraziarli per l'impegno profuso quest'anno. Verrà distribuito un importo di 11 milioni complessivi per 8.400 persone in 29 siti produttivi, 15 in Italia e 14 all'estero. E mi sembra una bella iniziativa, anche perché uno dei pochi settori a non essere stato così colpito, non ho detto che non sia stato colpito, è stato proprio il settore alimentare, e quindi ben venga un'iniziativa che premia i dipendenti in questo anno, diciamo, da dimenticare, il problema che non è ancora finito. Andiamo sul meteo. Focus Economia. La classifica della settimana. Adesso partiamo in maniera diversa, devo dare però l'aggiornamento sui dati diffusi oggi sui casi: 17.992 casi, resta alto il numero dei decessi, che continua a non piegarsi, oltre che in alcuni casi a non spiegarsi, 600 e 74, le terapie intensive sono in calo di 36 nel saldo tra ingressi e uscite, e le persone ricoverate con sintomi nei reparti sono in calo di 658 unità, però il tasso di positività è risalito al 10%, leggermente in aumento rispetto al 9,8% di ieri. Poi ricordo che come sempre il venerdì c'è anche tutto il rapporto del ISS. C'è una notizia che non arriva, non buona, scusatemi, dalla Gran Bretagna, dove l'indice RT, quello che registra la diffusione, è tornato sopra 1. Però dopodiché qualcuno mi sta scrivendo sui rientri, vedo adesso le agenzie, 70.000 siciliani si sono iscritti sul portale della regione perché rientreranno durante le feste. Qualcuno mi dice sì, è vero che c'è traffico, mi state mandando anche le foto sulla 1 all'altezza di Fiorenzuola, però il caos si sarebbe generato qualunque data, voglio dire, adesso non l'abbiamo fissata al 21, tu avessi detto il 18, il caos lo beccavi il 17, cioè quando fissi una data sai che la gente inizia a spostarsi prima del finché può. Hai due alternative: o la fissi dalla sera alla mattina, ma mi sembra una barbarie dire dalla sera alla mattina, da domani non esci più dalla tua regione, non ti sposti più dalla regione a regione, o la anticipi e prevedi per forza, diciamo, un certo traffico nei giorni precedenti alla restrizione. Allora andiamo al quinto posto, e ho detto partiamo forse perché è Natale, forse perché così, perché non si può sempre partire da notizie negative. Già l'anno mi sembra uno di quelli da, con tutto l'affetto per chi è nato nel 2020, per chi si è sposato, per chi si è innamorato, per tutto quello che volete. Allora complessivamente, ecco, speriamo di poter dire un anno da dimenticare. Partiamo al quinto posto, dicevo, con una buona notizia, perché con quello che racconteremo ce n'è bisogno. Allora, due signori, cioè marito e moglie, si chiamano Mauro e Martina. Lui è dirigente dell'azienda statunitense Eaton, è un'impresa americana che ha sede a Pessano con Borgano, in provincia di Milano. Si sono recati in pizzeria e hanno pagato due pizze $10.000. Voi direte qual è la buona notizia? È che le hanno pagate volutamente, non si sono fatti fregare come certi giapponesi di cui raccontammo a Venezia, per esempio. No, loro sono andati a mangiare a Pizza Out, si scrive così, che è una pizzeria Cassina De Pecchi, nella zona metropolitana di Milano, che è parte di un progetto di inclusione sociale e che dà lavoro, dove lavorano ragazzi affetti da autismo. La notizia l'ha dato il presidente e fondatore del gruppo, Nico Acampora, che ha ringraziato il benefattore con un post sulla pagina di Facebook. Appunto, volutamente hanno pagato due pizze $10.000. E da quello che so, Pizza Out si muove adesso con un camioncino, un food truck in giro per Milano, e a febbraio aprirà anche un ristorante a Cassina. Visto che ce n'è bisogno, l'applauso che noi diamo in maniera sempre ironica come sfottò il primo posto in classifica, stavolta lo voglio dare veramente ai due coniugi, perché quando uno può, mi sembra una bellissima iniziativa in questo periodo. Pessago con Bornago, sbagliato. Dopodiché invece mi segnalano che è stata chiusa, stiamo verificando la cosa, a Milano il Pane Quotidiano, che era un centro, come ce ne sono tanti, per aiutare persone bisognose, persone che non riescono ad avere a permettersi un pasto, una cena, un pranzo e una cena, che chiaramente sono aumentate. Da questo punto di vista c'erano gli assembramenti perché si creavano lunghe file, però io posso anche immaginare che in una città civile si possono mettere dei vigili, si possono mettere, però stiamo verificando la notizia, se perché voglio capire se è vero o no, e poi vedremo un aggiornamento, visto come lo state scrivendo, appena verificata. Andiamo al quarto posto invece, dai. 10.000, no, guarda, $10.000, anch'io quando ho visto la notizia ho letto $10.000. A proposito delle notizie della classifica, mi ha scritto un collega, Carlo Picozza, della Repubblica, che dice, adesso poi gli scriverò, non avete citato il mio articolo. Allora guardi, le chiedo venia, però, che l'articolo era mio, riguardava i baroni, i concorsi all'università, le gola profonda dei baroni, il punto è che, chiedo scusa, noi citiamo notizie che sono uscite su tanti giornali di sotto. le prendiamo tutte dai giornali, l'ho spiegato moltissime volte, non sono cose che diffondiamo dandoci nel merito, sono notizie che troviamo sui giornali, spesso sulle edizioni locali dei giornali, e quindi mi dispiace se lei si è sentito offeso, citiamo il nome e qui andiamo avanti, dai. Oh, mi segnalate che non riesco a pronunciare il nome del il paese del benefattore adesso, cosa ho detto? Pessano con Bornago, va bene così? Pessano con Bornago, è che delle volte sono così difficili, ce n'è uno in cui manderei alcune persone monate sul serio. Allora, quarto posto della classifica, dai, quarto posto, partiamo neanche tanto bassi, per modo di dire, perché su questo c'è già il traffico. Allora, no, non c'è traffico, no, ditemi cosa devo fare. Allora, quarto posto, visto che quinto abbiamo già fatto, è giovane, era un promettente, era, penso, un promettente politico, ma soprattutto, pur essendo giovane, pur rientrando nella categoria di Lazzaro, c'è un, per favore, vergate sul membro, no, ha già imparato tutto, perché lui ha pochi anni per essere un politico, ma ha 35 anni, ma ha già imparato, lo dico ridendo, ha già imparato come si vuole fare politica, per esempio in Calabria. Hanno arrestato il consigliere del PD, lui si chiama Antonio Castorina del Partito Democratico, perché? Perché hanno scoperto che i voti per il consigliere comunale erano arrivati da anziani che mai si erano recati ai seggi e anche di persone decedute. Allora, l'accusa è appunto aver violato la normativa elettorale per assicurarsi l'elezione al Consiglio Comunale. Tra i 1.510 voti rastrellati da Castorina, che pure componente del direttivo nazionale del PD, adesso immagino che verrà espulso, perché era considerato una specie di enfant prodige. Sì, enfant prodige, prodige per che cosa? Ci sono tantissimi cittadini nei suoi voti, nei 1.510 voti che ha preso, che non si sono mai recati al seggio, alle comunali del 20 e 21 settembre. Anziani, soprattutto anziani, che risultavano espresso la loro preferenza. Gli accertamenti sono partiti, pensate un po', dopo che in un seggio, durante l'operazione di voto, la polizia ha fermato un soggetto con in tasca tre schede elettorali. La notizia era trapelata nelle scorse settimane scorse perché erano comparsi sui social alcuni post sugli interrogatori di molti ultra ottantenni a cui la polizia aveva chiesto se fossero andati a votare. Parecchi di loro avevano detto di non essere mai stati a votare e quindi le indagini hanno riscontrato i sospetti iniziali. In poco più di un mese la Digos ha sequestrato tutti i verbali delle sezioni e documenti dell'ufficio elettorale del comune di Reggio Calabria. Gli inquirenti non hanno dubbi che i brogli siano stati opera di Castorina e di persone a lui vicine, tant'è che lo hanno arrestato. Anche perché l'hanno scoperto verificando le richieste di copie delle schede elettorali. Nelle settimane precedenti, in sostanza, cosa è successo? Nelle settimane precedenti al voto, senza alcun documento o delega, vi era stato duplicato di centinaia di tessere che sarebbe stato consegnato direttamente al consigliere del PD o a persone di sua fiducia. Non a tutti, ma a molti di quei duplicati sono stati utilizzati alle elezioni comunali per far risultare il voto di anziani in realtà rimasti a casa. La domanda è: ma come fai, visto che devi presentare il documento di identità quando voti? C'è un trucco, tra virgolette, perché in tutti questi casi compare la scritta al lato del nome di chi non ha mai votato ma risulta essersi recato al seggio per votare. Compare la scritta conoscenza personale, non è una battuta. Conoscenza personale in realtà è una norma che consente l'identificazione dell'anziano grazie all'attestazione di uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione che dichiara di conoscere personalmente l'elettore. Non ho capito se sono anziano o no. Cioè, se è lì e ha dimenticato il documento, se uno dei componenti del consiglio elettorale, dell'ufficio elettorale, dice no, lo conosco, testimonio io, conoscenza personale, è veramente Sebastiano Barisoni. E allora vuol dire che c'è una complicità. È ovvio che si sono comparsi centinaia di anziani la cui identità sarebbe stata certificata senza l'obbligatorio documento di riconoscimento. non può aver fatto tutto Castorina. E ecco perché nell'inchiesta sono finiti anche i documenti firmati dal presidente della Commissione Centrale, e poi vi era già stata una segnalazione di gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni nei confronti segnalate dal giudice Giuseppe Campagna alla Corte d'Appello, nell'espletamento delle funzioni di presidente di seggio a carico di 25 nominativi, cioè sostanzialmente ci si era accorti subito che qualcosa non stesse funzionando. Faccio notare che il giovane consigliere comunale che ha fatto sti magheggi, addirittura ci sono due deceduti in questo periodo, mi sembra particolarmente, diciamo così, macabra come cosa, era già stato indagato nell'ambito dell'inchiesta Helios per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. È stato il consigliere comunale più votato del centrosinistra. Beh, te credo se usavi sti metodi, però. Nonostante il suo coinvolgimento nell'indagine sulla AVR, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, il politico che è finito a domiciliare era stato ricandidato alle comunali. Ha appoggiato la candidatura a sindaco di Giuseppe Falcomattà, la cui vittoria però non è stata messa in discussione anche da queste schede. E il GIP però ha disposto anche una misura cautelare per un altro soggetto che avrebbe aiutato il giovane consigliere comunale, è il presidente di seggio Carmelo Giustra, che avrebbe appunto favorito i presunti magheggi elettorali di Castorina. Quindi si aggiunge una nuova categoria esistenziale, il voto a mia insaputa, il voto a tua insaputa. E vabbè, e meno male che questo era promettente politico del PD in Calabria. Sorrido perché qualcuno mi ha detto Boadin, c'è il traffico, qualcuno guarda molto Crozza e l'imitazione di Zai. Andiamo al terzo posto. Terzo posto, faccio così perché torna l'ATAC. E non potevano mettere l'ATAC al terzo posto, non potevano mettere l'ATAC al terzo posto questa volta perché si dovrebbe beccare veramente due posizioni, non una. Allora, hanno scoperto con un'inchiesta, cioè la denuncia arriva dall'ex presidente Paolo Simioni e Cristiano Ceresatto, manager che fino a qualche settimana fa aveva la delega alla gestione del personale. Hanno scoperto certificati medici, anzi partiamo dall'altra, perché sono due che riguardano l'ATAC. Allora, hanno scoperto intanto una cosa, che decine di autisti viaggiano a ritmo lento, e non è una battuta, non è un modo di dire, perché con i passeggeri che arrivano in ritardo, per saltare l'ultimo giro al volante a fine turno. Cosa vuol dire? Se il conducente arriva tardi al capolinea, quasi sempre dalla colpa al traffico ovviamente, viene esentato da rimettersi in marcia se il tempo stimato per il ritorno supera quello previsto dal servizio. Perché se tu arrivi tardi e devi tornare, ma dopo un tempo più breve finisci il servizio, non devi fare il ritorno. E allora che cosa succede? Alcuni autisti hanno iniziato a presentarsi all'ultima fermata oltre il limite fissato dalla tabella di marcia, rendendo impossibile a quel punto il viaggio conclusivo, perché è chiaro che le tabelle di marcia esistono anche per sono pensate anche, non è che uno impazzisce e ti mette in turno quando il tuo turno è finito, però se arrivi tardi all'ultima fermata, al capolinea, non sei esentato dal ripartire. Allora, l'ha trovata la scoperta della stessa ATAC, perché i report interni svelano che vi sarebbero 50 conducenti, anzi vi sono 50 conducenti sanzionati solo nell'ultimo anno, incastrati dal sistema satellitare montato a bordo dei mezzi, e riescono a beccare solo quelli più sfacciati. Che cos'è che fanno? Perché, a parte che a Roma, come in altre città, ci sono imbottigliamenti vari, c'è traffico e quant'altro. Però la giustificazione non regge con il GPS. Ecco perché hanno rafforzato i controlli. La tecnica è molto semplice. Gli autisti viaggiano nell'ultimo pezzo a passo d'uomo, si mettono in coda alle macchine, quello che... macchine particolarmente lente, non so, beccano quella che è lì che guida più, o quello che guida più lentamente di tutti, e fanno in modo di arrivare in ritardo. A farne le spese ci sono i viaggiatori, i passeggeri, ma anche la municipalizzata, che guadagna col contratto di servizio del comune in base al chilometraggio. L'anomalia è stata notata nei fogli di via, cioè i moduli che gli autisti poi devono compilare obbligatoriamente per riferire gli spostamenti. Le dichiarazioni non sempre coincidevano e gli autisti notavano più chilometri di quelli effettivamente macinati. E soprattutto questa tecnica di rallentare, mettersi in coda magari alla bicicletta, al motorino, al monopattino, e così arrivi troppo tardi per poter riprendere la corsa. Ma niente rispetto a quello che è sempre all'ATA, che, e lì vengo al secondo aspetto, hanno denunciato l'ex presidente Paolo Simioni e Cristiano Ceresato, manager appunto che aveva la delega alla gestione del personale. Certificati medici e pediatrici con firme false, date cambiate a mano, timbri sottratti a tradimento ai medici dell'Umberto I, accessi abusivi al sistema informatico aziendale per coprire i colleghi. Ci sono 8 autisti, di cui 5 già rinviati a giudizio per falso e truffa. Per fortuna, aggiungo io, i magistrati della Corte dei Conti vogliono che i dipendenti paghino, restituiscono, perché sai, poi c'è il processo, no, restituiscono immediatamente 23.000 euro, che secondo il calcolo della Corte dei Conti è quanto sottratto alla partecipata in termini di stipendi e chilometri non percorsi. C'è di tutto su questo. Due coppie di autisti con figli sono finite nei guai per avere contraffatto i certificati presentati per le malattie dei loro bambini. I primi 3 pediatri sentiti dalle fiamme gialle sono rimasti a bocca aperta. Quella firma non è mia, io non scrivo così. La grafia è diversa, manca anche il mio timbro. Un quinto conducente ha presentato certificati con un'intestazione inventata, sbagliando anche il numero civico. Il sesto, partendo da un solo attestato, ne ha prodotti 3, praticamente la moltiplicazione degli attestati, altro che pani e pesci, cambiando ogni volta la data, prima il mese, poi il giorno, che è una fatica. Infine il Ministero del Policlinico. Uno degli indagati si è assentato per 7 giorni, ma risulta presente per prelievi e accertamenti solo in 4 occasioni. Davanti ai certificati, una delle dottoresse ha detto: sì, è la mia firma e la mia grafia. Peccato che il timbro avesse data 18 agosto, ma lei aveva smesso di lavorare, non aveva più il timbro a contratto dal 31 maggio 2018. Allora, sommando i giorni di assenza, si arriva a 59 giorni, due mesi, più di due mesi perché poi ci sono le pause, e appunto 23.254 euro sotto forma di permessi regolarmente attribuiti. Questo è il costo per l'ATAC, che ha praticamente chiesto 394 euro ai pendolari per ogni giorno di assenza. Faccio notare che nel frattempo, nella prima metà del 2020, il tasso di assenteismo all'ATAC si attesta al 15,5%, quello di altre municipalizzate, penso da TM, è alla metà esatta, al 7,5%. GR24 va. Ormai sai usare la fatturazione elettronica. Crei, invii e ricevi fatture ogni giorno. Ma ti sei accorto di spendere troppo? Passa alla fatturazione elettronica di Aruba. Puoi importare da altri sistemi i tuoi clienti, i prodotti, i servizi e le fatture in una soluzione completa e conveniente. Risparmia con la fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Su aruba.it. Non sono una ragazza semplice, non mi va mai bene niente. Diciamo che ho dei gusti un po' complicati. Non rido quando gli altri ridono, non piango quando gli altri si commuovono e non mi emoziono davanti alle classiche scene romantiche. Con Sky Q però posso finalmente trovare tutto quello che mi piace. Il neorealismo italiano di Favolacce su Sky. Andare a caccia di strane cospirazioni con l'ufficiale e la spia. E mi concedo anche una partita tutta strategia e intuizione con la regina degli scacchi su Netflix. Mi piace però anche approfondire, andare oltre. Per questo non mi perdo un documentario di Sky Arte. Le meraviglie non sono solo 7. La meraviglia più grande è che posso fare tutto questo senza uscire da Sky Q. Sky Q, tutto quello che ami è in un unico posto. Facile. Chiamaci 02 80 80. Costi e condizioni su sky.it. La gestione della tua flotta aziendale è il tuo business? Che si tratti di mezzi pesanti o leggeri, di veicoli a noleggio o auto aziendali, questo annuncio è pensato per te. Per te che vuoi ottimizzare i percorsi per limitare gli sprechi. Per te che vuoi accedere in un clic ai dati del tachigrafo di bordo e che vuoi dotare i tuoi mezzi dei migliori sistemi di sicurezza. Per te, oggi, c'è VisiRun, il software che monitora praticamente in tempo reale la tua flotta, a partire da 19 euro al mese. Prova VisiRun gratis su visirun.com. VisiRun, l'innovazione semplice che fa il successo facile. VisiRun. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti, ultime due posizioni in classifica. Qualcuno mi scrive, però ricordate anche che Roma è salita nella classifica del Sole 24 Ore. Certo che l'abbiamo ricordato al 18° posto, e così come abbiamo ricordato Caracalata a Milano, ma guardate, non è un problema regionale o comunale. Adesso sto per mettere in classifica due regioni. Chi ascolta questo programma sa che la Lombardia è finita più volte nei punti più alti della classifica, dai vaccini, ma non solo, per cui non mi sembra che in questo momento... Le regioni sono diverse, ma che il modello regionale abbia funzionato, sapete come la penso. Penso che dal punto di vista sanitario sia stato un disastro il conflitto Stato-Regioni, e con i presidenti di regione spesso più intenti a creare, non tutti, a cercare consenso a breve, criticando il governo quando chiudeva, salvo poi chiedere al governo di chiudere quando i casi esplodevano, per favore. Però andiamo al secondo posto. Allora, al secondo posto mettiamo il governatore Vincenzo De Luca, ma non perché ci abbia fatto qualcosa, semplicemente perché va a processo, è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte dei Conti. Dovrà rispondere della nomina in regione di 4 vigili urbano di Salerno, suoi fedelissimi autisti distaccati a Palazzo Santa Lucia dal 2015 e promossi al rango di dirigenti nella segreteria del presidente. L'ipotesi della Corte dei Conti, che calcoli i danni erariali, i danni allo Stato, di 403.000 euro. Le indagini, anche in questo caso, sono scaturite per una coincidenza. Ci fu un incidente stradale nel 2017, quando l'auto del presidente De Luca, guidata da uno dei quattro vigili, investì a Salerno una giovane donna, per fortuna senza tragiche conseguenze. Quell'episodio portò l'attenzione su chi era la guida. Scattarono le denunce sui vigili premiati dal governatore De Luca e si aprì una doppia indagine, procura e Corte dei Conti. L'indagine penale va verso una probabile archiviazione, va detto, invece gli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza sono proseguiti. E infatti è arrivata un atto di citazione in giudizio. Tra l'altro, con un decreto del 1° dicembre... che evidentemente non c'era altro da fare in Regione Campania, il governatore ha riconfermato in Regione 3 dei 4 vigili come segreteria del presidente, anche perché molti si sono così sono rimasti perplessi, perché erano note da mesi le indagini, almeno da settembre, quando il quotidiano Repubblica ne diede conto alla vigilia delle elezioni. Le indagini erano legate appunto alla promozione dei vigili autisti per un'eventuale truffa dal punto di vista penale, ma anche spreco di denaro pubblico. Cosa succede? Dopo 9 giorni, il 10 dicembre, quindi una settimana fa, con un secondo decreto, sempre a firma di De Luca, sono stati sospesi gli incarichi ai 3 vigili per un massimo di 30 giorni. Il motivo è una riorganizzazione degli uffici, però qualcuno sospetta che si possano essere accorti del salto di qualità nell'indagine. Nel frattempo, infatti, la Procura Contabile aveva già valutato che vi fossero gli estremi per esercitare l'azione di responsabilità. Ora, io capisco tutto, ma è normale che tu, con questo casino che devi gestire del Covid, delle regioni, abbia il tempo per fare il 1° dicembre decreto in cui riconfermi 3 dei 4, il quarto non si è ripresentato per motivi personali, e poi il 9 dicembre, dopo 9 giorni, il 10 dicembre, con un secondo decreto sospende gli incarichi ai 3 vigili. Ma quanto importanti sono questi 3 vigili come segreteria del presidente? Adesso non voglio finire negli strali De Luca, ma sostanzialmente non me ne frega nulla in questo caso, perché non sono io, è la Corte dei Conti. Allora, dagli accertamenti dei finanzieri è emerso che 4 vigili non hanno svolto di fatto dal 2015 al 2020 le mansioni per cui erano stati nominati in regione. Questo è il danno erariale. Tradotto, cioè, erano stati indicati come segretari, responsabili dei rapporti con il Consiglio regionale e altre istituzioni, ma svolgevano solo il ruolo di autisti. Peccato che venissero pagati come dirigenti. Ecco perché si sarebbe prodotto un danno alla regione, perché tu hai riconosciuto ai vigili un'indennità di funzione non proporzionata al livello, al loro livello di professionalità. I 4 beneficiari sono Claudio Postiglione, appunto riconfermato, poi sospesa la riconferma il 10 dicembre, riconfermato il primo, sospesa la conferma il 10, Giuseppe Polverino, Giuseppe Muro, e il quarto invece non è stato richiamato per motivi personali. Le loro deleghe sono responsabili dei rapporti con strutture regionali e istituzioni locali per Postiglione, per Polverino responsabile dei rapporti con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e Giuseppe Muro responsabile dei rapporti con i consiglieri regionali. Erano tutti responsabili dei rapporti, ma via Bluetooth, perché se stavano sempre alla guida della macchina del presidente, ma per favore. Poi a me la cosa che mi anda ancora più nei pazzi è che tu hai tempo per fare in sto periodo 2 decreti a distanza di 9 giorni sui tuoi 3 dei 4 vigili della segreteria del presidente, perché ma poi che tessiamo gli autisti, nessuno si può muovere in sto periodo. De Luca, mi sembra che parli molto in TV, cosa se ne fa degli autisti? Ma andiamo al primo posto, dove torna dopo un paio d'anni almeno una nostra vecchia conoscenza. È nuova in realtà, ma è vecchia come conoscenza. And the winner is la sede della Regione Puglia. Ora, io in questa classifica ho perso il conto di quante volte dalla sede della Regione Piemonte, poi furono anche le sedi delle nuove, perché sembra che la cosa più importante per le regioni obiettivamente sia la sede, no? Il parlamentino. Allora, è nuova come sede, ma ha già un record, secondo me, che è finita in classifica non mi ricordo quante volte, ma voglio legarla a un'altra cosa. Allora, vi ricorderete, la sede della Regione Puglia è stata inaugurata nel 2019, ha avuto 5 varianti, gli anni per costruirla sono stati da 3 a 11, il costo è lievitato dai 40 milioni previsti a 87 milioni. La sede faraonica, e l'avevamo raccontata a suo tempo, perché a pochi giorni dall'inaugurazione, fine gennaio 2019, si erano già allagate alcune stanze, alcuni corridoi dopo la prima pioggia, e la Corte dei Conti ha aperto un altro fascicolo. Ma ce ne eravamo occupati prima ancora che venisse inaugurata, perché qualcuno di voi ricorderà le famose plafoniere d'oro, poi c'era anche la fontana che è stata, per fortuna, se non ricordo male, cancellata. Ma le plafoniere d'oro, perché nella regione Puglia, le plafoniere non solo sono tantissime, 1600 plafoniere, ma sono costate 637 euro l'una. E appunto, te chiedi, poi anche un po' scontate. Ma qui torniamo sulla sede della Regione Puglia per un'altra cosa incredibile. Perché praticamente l'ha inaugurata nel 2019, non penso che nel 2020 sia stata così utilizzata, perché sostanzialmente erano anche loro in lockdown. Eppure, sentite questa, con tutti i problemi che adesso racconterò, la sede viene inaugurata nel febbraio del 2019 e nell'arco di un tempo pochissimo, di pochissimo tempo, c'è già da operare delle lievi sistemazioni. Il 22 luglio del 2019 il segretario del Consiglio regionale ha detto: attenzione, bisogna rendere più funzionale l'utilizzo della sala consiliare. A quel punto, una cosa emergenziale evidentemente, no? Mancava solo la protezione civile, si mobilitano i tecnici della Regione Puglia e i tecnici che fanno capo a una ditta di Gravina in Puglia, la stessa che aveva già eseguito i lavori in quella sala. Che cosa succede? Bisogna sistemare, adesso leggo testualmente, i lievi interventi di falegnameria sono i seguenti: bisogna realizzare due ante in legno in corrispondenza dei due posti delle prime file dei settori consiglieri al fine di garantire una maggiore via di esodo. Qua non c'era ancora il Covid, via di esodo? Via di esodo dei consiglieri della Regione Puglia. Dall'altro, bisogna realizzare due vetrate in corrispondenza del corridoio perimetrale della sala e al fine di separare le uscite di sicurezza del settore pubblico da quelle dei settori destinati ai consiglieri regionali. Dopo 5 mesi dell'inaugurazione. Quanto costano due ante e due vetrate? Io non lo so, sarà un prezzo di mercato. 24.000 euro. Allora, litrato con un iter fulmineo, perché il preventivo della ditta arriva in regione il 18 luglio e viene acquisito formalmente il 23 luglio per 20.180 euro, poi si fa un piccolo sconto a 19.600 euro. Ragazzi, se lavoriamo così con il recovery plan siamo a cavallo, perché se hai questa rapidità nel sistemare due ante e due vetrate della sala consigliare della regione Puglia, per cui dal 22 luglio tu ottieni 18, cioè prima il 22 c'è la richiesta formale, ma il 18 hai fatto il primo preventivo e il 23 l'acquisto formale, siamo un paese che non deve temere nessuno quanto a rapidità della macchina pubblica. Peccato, non c'entra direttamente con la regione, con la sede della regione, ma ti fa capire anche le priorità. Peccato che in Puglia in questo momento i medici di famiglia stiano lamentando a più di 20 giorni dalla firma dell'intesa e a oltre una settimana dall'ordinanza del governatore, i medici di famiglia e i pediatri non possono sottoporre, l'accordo prevedeva che potessero sottoporre a tampone rapido i pazienti che avessero avuto un contatto stretto con una persona positiva. Non riescono ancora a farlo. Niente test, supporto azzerato nei confronti dei dipartimenti di prevenzione, contact tracing, chi cavolo se ne frega, nessuna quarantena per i pazienti. Perché a 20 giorni dall'accordo e a una settimana dall'ordinanza del governatore non si riesce, anche perché il provvedimento c'era scritto avere efficacia immediata fino al 31 gennaio 2021, perché la piattaforma informatica che la regione deve mettere a disposizione dei medici non è ancora partita. E lo denuncia anche il segretario generale della FIMMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Donato Monopoli, che dice la regione non ci ha messo a disposizione la piattaforma informatica, che è fondamentale perché i medici devono registrare le eventuali positività ai test rapidi e comunicarle ai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Dicono i medici, ma è inutile che tu prenoti un tampone molecolare se io poi non posso inserire se sei positivo o no. Come glielo fanno sapere all'ASL, no? Ecco, quindi i medici non possono rispettare l'ordinanza del governatore che hanno contribuito a scrivere, la piattaforma non si capisce a Regione Puglia perché non ci sia, ma soprattutto non capisco perché una regione così efficiente che per sistemare due pannelli e due vetrate spendendo 20.000 euro, 24.000 euro poi scese a 20.000, ci mette praticamente 5 giorni, che veramente neanche la NASA, e invece una piattaforma informatica non riesce a partire per permettere ai medici di famiglia di scrivere chi è positivo. I misteri della regione Puglia in questo caso. Gabriele Giuliano, fondatore e amministratore delegato di Tutor Red, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, senta, siccome mi piace molto la sua iniziativa, perché in regia hanno già capito dove sto arrivando, mi piace molto la sua iniziativa, lo dico veramente, anche perché si occupa di studenti, di neolaureati, noi lunedì abbiamo un appuntamento con Maria Piera Ceci all'interno di Uno Nessuno e 100.000. Le do appuntamento a lunedì, le auguro un buon fine settimana, perché voglio parlarne in maniera molto, molto... anche esaustiva, e oltre al fatto che, per cui le auguro buon fine settimana, ma la risentiamo lunedì. A chi mi chiede quando tornerà il professor Sapelli, tornerà Sapelli la prossima settimana, quando arriverà l'astrologa con tamburi il 24 di dicembre, speriamo bene quest'anno, visto che l'anno scorso avevamo avuto i quattro pianeti in Saturno e la cosa non portava bene, in effetti non ha portato bene. E invece cambiamo tema, vorrei capire le ultime previsioni sull'anno economico e sulla partenza 2021 diffuse oggi dal rapporto di Prometeia sulle previsioni economiche. Allora, Stefania Tomasini, responsabile di analisi e previsioni economiche di Prometeia, buonasera. Buonasera. Dunque, voi avete stimato oggi un crollo del PIL nel 2020 del 9,1%. Purtroppo avete tagliato la stima per il 2021 dal più 6,2% al più 4.8. Ed è la prima domanda che ho per lei, e se mi poi veniamo anche al recovery fund. Come mai è la frenata con cui entriamo nel 2021? È la frenata con cui entriamo nel 2021 e abbiamo un po' rivisto al ribasso anche l'impatto espansivo dei fondi del recovery fund. Le due cose insieme hanno portato a questa revisione. E allora veniamo al recovery fund, perché voi dite l'Italia riuscirà a spendere l'80% dei fondi. Io, viste le percentuali di spesa da parte delle regioni negli anni scorsi, che si arrivava dal 30 al 40%, ci metterei la firma per l'80%, però voi dite che questo contribuirà un po' meno alla crescita economica. Quant'è l'impatto del recovery da qua al 2023? Al 23 al 23 arriverà un punto e due, con una partenza un po' lenta. Siamo consapevoli di avere aperto una sorta di linea di credito non al governo, ma al sistema paese nel suo complesso, perché è una partita complicata, come lei sa e come testimoniano tutti i racconti che fa dei disservizi dalla piattaforma informatica che non c'è a quant'altro. Quindi da un lato è vero, è un problema, sarà una grossissima sfida, però siamo anche consapevoli che è un'opportunità che forse non si ripresenterà in qualche modo unica per il nostro paese. Quindi diciamo che forse c'è un po' l'ottimismo della volontà, ecco, in questa previsione. In realtà abbiamo una previsione molto cauta appunto sul 2021, perché 0,3%. Anche il governo è molto cauto in questo, 0,3% di impulso quest'anno non è tanto, e via via crescente, che è un po' anche l'esperienza, come ricordava lei, dei fondi europei, che all'inizio partono con molta fatica, ma poi alla fine insomma un po'. C'è un'accelerata. Sì, io spero anche che il fatto che vi sia un controllo periodico dell'Unione Europea. Esatto. Ma periodico non vuol dire come fa adesso, che quando tu non riesci a spenderli, che controlla alla fine, ma vuol dire che vai a vedere il ciclo di avanzamenti dei lavori, ecco, lo stato di avanzamento dei lavori, dovrebbe rendere anche insomma forse più efficace questa spesa. C'è un'altra cosa che voi dite, c'è una parola che io non sopporto, che è resilienza, però voi la usate, dite l'economia italiana... Ma la usano tutti! Per questo non la sopporto, ho capito. Sono d'accordo. Anche Attimino ormai la usavano tutti, dottoressa. Ormai, però c'è anche il nostro, si chiama Piano Nazionale di Resilienza. Non possiamo cambiargli nome noi. Sì, ma visto come sta andando, porta sfiga, io chiamerei proprio nome. Comunque, voi dite l'Italia ha mostrato una buona resilienza, anche più delle previsioni nel terzo trimestre. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che vi aspettate che, qualora i vaccini dovessero insomma svolgere il loro effetto, vi possa essere un recupero più forte? Perché voi citate anche la politica fiscale che ha sostenuto i redditi e quella monetaria che ha rafforzato il credito, però mi interessava capire come questa buona capacità di reazione potrebbe intervenire nel 2021. Sì, c'è questo tema. L'economia italiana ha rimbalzato come tutte le economie europee, però se andiamo a vedere il rimbalzo è stato decisamente migliore, e soprattutto per l'industria, che ha mostrato oggettivamente una tenuta molto molto buona, e l'industria delle costruzioni anche, che ha una brivida, è l'unica che ha recuperato i livelli pre-crisi, per cui se si riuscirà a contenere questo virus maledetto ormai, e se appunto si riuscirà con le politiche monetarie e fiscali a mantenere in vita le imprese, la possibilità che ci sia un altro rimbalzo terminata questa seconda fase c'è, e questo insomma è effettivamente un dato positivo da segnalare, siccome ci lamentiamo sempre, segnaliamo sempre tutte le cose che non vanno. Sì, c'è questa capacità di non solo di reazione, ma di ripresa, di scatto, ripresa, diciamo, del terzo trimestre. Anch'io e spero. Anche le informazioni congiunturali sul mese autunnali, quando comunque un po' la diffusione del virus aveva ripreso vigore, continuano ad essere abbastanza buone per l'industria. E quindi poi è chiaro che ci sono tanti servizi che stanno soffrendo moltissimo, quindi questo è bisogna ricordarlo, insomma, la simmetria è un tema fortissimo di questa fase, però ci sono dei settori che stanno tenendo bene, che quindi una volta terminata questa fase, diciamo, la crisi sanitaria, potrebbero manifestare un rimbalzo anche abbastanza. Sì, devo dire che oggi anche la Confindustria, il Centro Studi Confindustria, dice che regge fatica l'industria, però la V della crisi è meno profonda del previsto grazie al rimbalzo del terzo trimestre, più 16%. Però tutti vi attendete un nuovo calo nel quarto, ed ecco l'effetto trascinamento, certo. E il trascinamento nel 2000. Noi ci aspettiamo un segno meno anche nel primo trimestre, piccolo, più piccolo, ma sarà un inverno molto duro, sì. Allora, sì, su questo, in una battuta, ho veramente un minuto, sul fronte internazionale voi notate una grossa divergenza tra l'economia occidentale, Europa, Stati Uniti e la Cina? Sì, la Cina ormai non sembra non esserci più un problema di virus, ha ripreso i livelli pre-crisi, anzi sarà l'unico grande paese a non registrare una caduta nel corso del 20 e la ripresa è assolutamente in corso, per cui questo da un lato è un aspetto positivo perché significa che c'è una parte del mondo che sta crescendo e quindi sostiene. Bisogna vedere se compra la nostra merce o ce le vende. Il problema è che molto del commercio potrebbe spostarsi in quell'area e quindi. Il problema è se funge anche da importatore delle nostre merci oppure solo se ce le vuole vendere, perché dopo aver generato un virus, non averlo comunicato per tempo, non averlo gestito per tempo, aver rifiutato qualunque inchiesta internazionale, adesso manca solo che se ne avvantaggi. Lo dico così, dopo essermi fatto amico la regione Puglia, la regione Campania, mi sono fatto amico oggi anche la Repubblica Popolare Cinese, ma tant'è. Noi ci rivedremo, mi auguro, lunedì dalle 17 in poi, grazie anche alla responsabile per l'area di ricerca di Prometeia e per quello che ci ha detto, analisi previsioni, a Stefania Tomasini, grazie a Maria Sole Lisciandro e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in regia. Un auguro di buon fine settimana, stanno uscendo le notizie tutti i giorni in zona rossa tranne che quelli dal 28 al 30 in Italia in zona arancione. Boh, ve le daranno i nostri GR24, spero a questo punto definitive.